Eccoci qua alle 21.08.09 in questo momento, inizia prove tecniche di trasmissione, anche per oggi 17 ottobre del 2018, appuntamento consolidato di ogni mercoledì sera che andrà avanti sino alle 22.30 circa, poi ci sarà 25 o'clock. www.ondarossa.info, il sito internet utile anche per connettersi via streaming. Il telefono 06 49 17 50, l'indirizzo di posta elettronica è ondarossa@ondarossa.info, e domani invece sul sito, oltre che sulla pagina Facebook prove tecniche di trasmissione /disorder, andrà il podcast e la playlist di questo programma. Salutiamo Alessandra qui da Roma, Enrico Cerrato da Asti di Petrolio, che ringraziamo per le notizie che ci sta dando privatamente, un abbraccio a lui. Maya dalla Sardegna, Like Awake, progetto Dark Ambient qui da Roma. Antonella dalla Sicilia. Anche per oggi andiamo un po' a visitare e a concludere la nostra analisi riguardante Iraet, l'ultimo lavoro di Lisa Gerrard insieme a David Cookerman, quest'ultimo percussionista e polistrumentista in ottima collaborazione con Lisa Gerrard, chiaramente cantante e leader dei Deccan Dance. Un album che si sviluppa sia su trame etniche ma anche su degli inserti più dilatati e riflessivi, qualcuno anche privo della sua splendida voce. Intanto si va a salutare Raffaele Pezzella e Fabiola qui da Roma, oltre che Luciano FM Genovese. Tornando a questo Iraet, ci ascoltiamo il brano omonimo e il successivo Monolith. Thank you.

qualcosa di amaliante, seducente, una classe immensa, quella emanata da Lisa Gerrard insieme a David Cukerman in questo E-Riot, un ultimo lavoro uscito proprio qualche mese fa. Marchio di fabbrica dunque il valore di Lisa Gerrard, ricordo ancora una volta, in attesa del ritorno dei Deccan Dance previsto per novembre. Intanto ci siamo goduto questo E-Riot in queste settimane, una ottima collaborazione quella con il polistrumentista David Cukerman. Salutiamo Nicola dalla Sardegna. Viaggio nell'est, Polonia, la Polonia di Job Karma. Progetto molto interessante, un po', devo dire, sottovalutato, compreso dal sottoscritto, ma mi sto rifacendo di questi tempi, iniziando con Strike, il quarto lavoro. È una bellissima copertina, un bellissimo fumetto. Strike, che esce per Arts Benevola Mater, etichetta italiana fondata da Mauro Casagrande. E questa sera ci ascoltiamo un paio di episodi più vicini al Martial. Con l'esattezza, per l'esattezza, si chiamano March e la title track Strike, che in inglese vuol dire sciopero. uno strike particolarmente marziale, epico, sinfonico, che riprende anche le movenze del miglior In the Nursery, progetto storico esistente dagli anni Ottanta, e credo che Job Karma ne sia l'espressione più fedele e più collegata a quella meravigliosa avventura. Ma anche Job Karma non è da meno. Masek Fret, Aurelius Pisareschi, Arek Bajinski, trio. E questa sera la maestosità si esprimeva attraverso March e la terza traccia dal nome Strike. Salutiamo ancora Maya e Nicola Locci, alias Stigmate, progetto italiano di industrial e dark ambient. Benvenuto anche a Fulvio Biondo di Solar Lodge. Allora, come avevo preannunciato la scorsa settimana, e qui a questo punto nominiamo Raffaele Pezzella, questa sera inauguriamo questo nostro viaggio in Libano attraverso la scena industriale e sperimentale elettronica del Libano stesso. Ringraziamo Raffaele per questo incessante lavoro di ricercatore che ha anche partorito questo Lebanon Music Survey Anthology of Electroacoustic Lebanese Music, uscito praticamente in due volumi, uno anche attraverso la propria etichetta Nesplay Sounds e un altro invece in formato digitale. E quindi con estrema curiosità cominciamo con andarci ad ascoltare Tony Elie con questa traccia lunga dal nome It's Good to Die Every Now and Then. Ecco la grande celebrità, questo Tony Elie, con cui si apre questo compendio riguardante la scena musicale del Libano, Lebanon Music Survey Anthology of Electroacoustic Lebanese Music, un'opera ideata, congegnata, assemblata da Raffaele Pezzella, di Sonologist. In quarantenne Tony Elie, fondatore anche degli Sclumber X, veniamo a scoprire un po' cosa succedeva in Libano, una band durata quasi 15 anni, poi la sua dipartita per quanto riguarda Tony Elie e il suo appunto progetto autonomo e solista, che ha partorito questa inquieta traccia con cui si è aperta questa compilation, It's Good to Die Every Now and Then. Consiglierei anche il profilo Bandcamp della Nice Plain Sounds Group, dove si possono trovare tutti questi dischi, tutte queste opere spiegate in maniera molto dettagliata dallo stesso Raffaele Pezzella. Vera risorsa umana. Dal Libano torniamo qui in Italia e lo facciamo con una musicista che milita negli Ovo, un gruppo che abbiamo apprezzato recentemente qui in prove tecniche di trasmissione. Invece come carriera solista si fa chiamare Alos e l'abbiamo anche vista live all'Ateneo Occupato quest'estate qui vicino a Roma. È una bellissima performance dai climi esoterico-industriali, caratteristica portante dell'arte di Alos, che si discosta un po' dal noise di Ovo. Questa sera ho questo lavoro dal nome Ricamatrici, con tutti i titoli che alludono all'arte del ricamo e probabilmente è un simbolismo, per cui ci ascolteremo quattro brevissimi estratti, i primi quattro, Tulle, Un giorno, Ago e Filo e Ricami, le prime quattro tracce di Ricamatrici. Thank you. Le incredibili estensioni vocali di Stefania Pedretti nel suo progetto solista Alos. Alos che è anticipato da un punto interrogativo all'inizio, ma non alla fine. Che, leggendolo all'incontrario, significa sola col punto interrogativo. Fatto sta che Rica Matrici, un album del 2009 che usciva attraverso Bar La Muerte, una ottima etichetta di Bruno Dorella, suo compagno negli Ovo e anche musicista di Sigillum S e Bachi da Pietra. Ricamatrici, che si sviluppa appunto sul concetto del ricamo in un probabile gioco di allegoria. E pensate che Bar della Muerte produsse i primi lavori addirittura di Bugo, fino ad arrivare ad Alos. Pensate la distanza tra questi due artisti. Si va a salutare intanto Alessandra Trinity Bersiani, ottima polistrumentista di un grande progetto romano, la Grazia Obliqua, la salutiamo. E anche il medico della peste ci fa compagnia. Mentre noi ce ne andiamo negli Stati Uniti con Jerry Garrison di Control, con questo suo ultimo lavoro, Blood Will Rain, uno degli artisti di punta della scena americana, appunto per quanto riguarda il noise più industriale. Questo lavoro esce per la Teutonica Ante Zen e ci ascoltiamo The Blood Death Power Hall.